Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Le conseguenze del nubifragio che a seguito di violenti temporali si è abbattuto nella serata di ieri a Trieste, a finire sott'acqua le vie del centro e l'area vicino alla stazione centrale, con un centinaio di migranti sorpresi in Porto Vecchio, costretti a cercare rifugio anche nelle chiese. Dei 41 mm di pioggia registrati in città, ben 37 sono caduti in una sola mezz'ora. Chiusa per frana la strada che da Tarcento va a Villanova delle Grotte, guardrail sfondato da grossi massi scivolati giù dai pendii dopo le forti piogge di lunedì sera. Trovare l'insulina sui prelievi da cadavere è una delle sfide più difficili nell'ambito della tossicologia forense. A dirlo il tossicologo del laboratorio del Burlo, incaricato dalla procura di Udine di analizzare la presenza di eventuali sostanze nel corpo di Alessandro Venier, il giovane di Gemona, per la cui uccisione si trovano in carcere la madre e la compagna. 80 domande per 40 posti disponibili al prossimo concorso per la scuola di formazione specifica in medicina generale, indispensabile per accedere alla professione, in programma il prossimo 30 settembre. Un segnale in controtendenza che fa ben sperare a fronte della sempre più rilevante carenza di medici di famiglia anche in regione. Inaugurata questa mattina negli spazi di Villa Aghi Costa a Trieste una nuova struttura per l'infanzia destinata a ospitare i bambini dei due nidi, la cui sede in via Veronese sarà oggetto di un prossimo restauro. Mancano 2 settimane a Pordenone Legge, la rassegna dedicata al libro e alla libertà, come sottolinea il presidente della fondazione Michelangelo Agrusti. Quest'anno la 26ª edizione avrà come tema conduttore l'Europa. Le 12:32 minuti, questi titoli, ancora un buongiorno da Giorgio Bearz e Maria Spezia a condurre insieme questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di mercoledì 3 settembre. In apertura torniamo dunque al nubifragio che a seguito di violenti temporali si è abbattuto ieri sera a Trieste. A finire sott'acqua le vie del centro e l'area vicino alla stazione centrale, con un centinaio di migranti che sono stati sorpresi in Porto Vecchio all'Addiaccio e sono stati accolti nella chiesa più vicina. Dei 41 mm di pioggia registrati sul molo Fratelli Bandiera, ben 37 sono caduti in una sola mezz'ora. Un centinaio gli interventi dei Vigili del Fuoco, che sono proseguiti anche nella notte, evacuate 2 palazzine in strada nuova per Basovizza e in via Belli, chiusa per un crollo via dell'Eremo. Disagi si sono registrati anche a Muggia e sul litorale. Dei 41 mm di pioggia, appunto, ben 37 ne sono caduti in una sola mezz'ora. Troppa pioggia in pochissimo tempo, caduti oltre 100 mm su tutta la città, allagate le vie del centro, tombini saltati e cassonetti trascinati in strada. Il giorno dopo ci si arma di scope e strofinacci. Tempo mezz'ora, il negozio era completamente inondato con almeno 30 centimetri di acqua sopra le caviglie. Ieri sera c'era anche con noi una persona di 92 anni, da sempre residente in via Milano, mai visto un lavoro del genere. Emergenza vuol dire emergenza, possiamo gestirla meglio, spero che questo sia uno spunto per migliorare dove stiamo peccando nel comune. Ci sono stati blackout e interruzioni telefoniche, un muro è crollato su 2 macchine in via dell'Eremo, evacuate per dissesto 2 abitazioni, una in via Belli, l'altra in strada per Basovizza, più di centinaia le chiamate ai Vigili del Fuoco, il vice comandante Alessandro Sancini. Questi eventi meteorologici ormai diciamo che ci stiamo facendo l'abitudine, no? Quindi queste bombe d'acqua, e quando arrivano ovviamente c'è lavoro per tutti. L'ispettore Antonio Bisogno. Nel corso della nottata sono continuati diciamo, gli interventi di soccorso, con una punta di circa 70 interventi espletati, diciamo, ad ora la situazione. Altre chiamate differibili saranno vagliate durante l'arco della giornata. Oltre 100 i migranti colpiti dagli allagamenti in Porto Vecchio sono stati accolti da strutture parrocchiali. Trieste, Andrei Marusic, TGR Friuli Venezia Giulia. Passiamo dunque al meteo, il cielo è sereno, in pianure sulla costa, da sereno a poco nuvoloso in montagna. Queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 24 gradi, il mare è quasi calmo con temperatura di 25 gradi, a Udine e Gorizia 23 gradi e mezzo, a Pordenone 23, in Aramontana Tolmezzo 20 gradi, Tarvisio e Forni di Sopra 18, Piancavallo 17 gradi e mezzo, Sappada 12 gradi e 5 decimi. In quota sul Monte Zoncolan 13, sul Monte Lussari 12 gradi e mezzo, sulla costa Lignano e Grado 23 gradi e mezzo, la temperatura del mare in entrambe le località è di 24 gradi. E queste le previsioni dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente per la Regione. Nelle prossime ore cielo in genere variabile, con schiarite più ampie e durature verso la costa. Nel pomeriggio sulle prealpi Giulie sarà possibile ancora qualche debole pioggia sparsa. che in seguito potrebbe estendersi anche alla fascia al confine con la Slovenia. Temperature massime previste in aumento. Domani tempo stabile con cielo in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso sui monti, venti di brezza, temperature massime in aumento, specie in pianura, dove torneranno a sfiorare i 30 gradi. E le forti piogge di questi giorni hanno causato una nuova frana sulla strada che da Tarcento va a Villanova delle Grotte. L'arteria è stata chiusa. Chiusa per frana, l'ennesima, la strada che da Tarcento va a Villanova delle Grotte. Guardrail sfondato da grossi massi, scivolati giù dai pendii dopo le forti piogge di lunedì sera, sollevati dai frassini che si schiantano al suolo, uccisi da un fungo. Una grande quantità di sassi è stata trattenuta da alcuni cavi d'acciaio, ma incombono sulla strada. Mentre la percorriamo per raggiungere il borgo, non è isolato, c'è da fare una deviazione per arrivarvi, il vice sindaco di Lusevera, Roberto Miconi, è costretto a rimuovere un tronco dal manto stradale. La protezione civile stima oltre un mese di lavori, con un primo disgaggio tra una decina di giorni. Mensilmente, ogni volta che c'è un'intensa pioggia, siamo costretti ad intervenire rapidamente per liberare il transito ai mezzi pubblici, allo scuolabus, alla corriera di linea. E direi che nell'arco di un anno decine di volte dobbiamo affrontare queste tematiche. Ripercussioni stimate sul turismo. 5.000 visitatori negli ultimi tre mesi alla Grotta Nuova. Dissesto idrogeologico, difficoltà dei piccoli comuni montani, cambiamento climatico. È tutto in un certo senso collegato. L'anno scorso per appaltare dei lavori dopo una frana si è dovuti ricorrere a un RUP esterno perché non c'è un dirigente nell'ufficio tecnico. Il municipio ha 5 dipendenti. I frassini vanno in necrosi per via di un fungo alloctono, diffuso ormai in tutta la regione, ma gli stress idrici nel corso dell'ultimo decennio accelerano i deperimenti della pianta. Difficile inoltre intervenire sui boschi a bordo strada se questi insistono su terreni privati. Sarebbe bello che si potesse pulire un po' i boschi. Prima o poi io spero che non succeda, ma io sarebbe bene intervenire, insomma, su questa situazione. La vita qua in giro è pericolosa per conto mio, perché appunto lì sono sempre dei sassi piccoli, sassi medi che arrivano. Siamo poco sicuri andando giù per le nostre strade. In paese c'è anche chi la prende con filosofia. Io credo che chi viene a vivere qui scelga questo posto proprio per il contatto con la natura. Viviamo giorno per giorno con gratitudine. Lusevera, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Ancora cronaca, non sanno ancora quando potranno rientrare nelle proprie abitazioni gli abitanti di una palazzina Ater di Grado in via Pampagnola, in cui ieri poco prima delle 13 era crollata una porzione di tetto di circa 4 metri quadrati che però precipitata fortunatamente nel vano scala senza causare feriti. Ad essere evacuate sono state 3 famiglie e 3 persone che vivono da sole, per le quali il comune ha predisposto una sistemazione temporanea in un albergo della zona. E da questa mattina è in corso un sopralluogo nell'edificio proprio per stabilire le cause del crollo, forse dovuto anche alle infiltrazioni di acqua delle piogge dei giorni scorsi. Nel frattempo, per sicurezza, sono stati chiusi gli impianti di gas ed elettricità dell'ultimo piano dello stabile. Trovare l'insulina sui prelievi da cadavere è una delle sfide più difficili nell'ambito della tossicologia forense, a dirlo il tossicologo del laboratorio del Burlo, incaricato dalla procura di Udine di analizzare la presenza di eventuali sostanze nel corpo di Alessandro Venier, il giovane di Gemona per la cui uccisione si trovano in carcere la madre e la compagna che hanno confessato il delitto. Proprio la madre, infermiera di professione, nella confessione aveva dichiarato di aver somministrato al figlio l'insulina che da anni teneva in casa. Siamo entrati nel laboratorio di tossicologia forense del Burlo che svolge l'attività periziale per conto delle procure della regione, non solo, anche dal vicino Veneto. Qui per esempio sono arrivati i campioni del corpo di Alex Marangoni, il giovane morto dopo un rito sciamanico sul Piave, o di Liliana Resinovic, e a breve inizierà sempre in questo laboratorio l'analisi sui prelievi dal corpo di Alessandro Venieri, il giovane di Gemona trovato assassinato e tagliato a pezzi immerso in un bidone di calce il 31 luglio scorso. Rei, confesse, mamma e fidanzata. Riccardo Dobbati, tossicologo responsabile del laboratorio, dice: trovare l'insulina è una delle sfide più difficili nell'ambito della tossicologia forense. Dalla confessione della madre di Alessandro, Lorena Venier, sappiamo infatti che l'avrebbe somministrata al figlio dopo che gli psicotici sciolti nella limonata non avevano fatto effetto. Dottore, perché è difficile trovare l'insulina? L'analisi dell'insulina presenta delle criticità importanti rispetto all'analisi di una droga o di un farmaco, in quanto innanzitutto è una sostanza già endogena, quindi bisognerebbe discernere tra la quantità endogena e la quantità somministrata, quindi quella sintetica, quella di origine esogena. E secondariamente ha una degradazione molto veloce nei tessuti, nel sangue, di conseguenza si deve lavorare a concentrazioni bassissime per trovarla. L'insulina avrebbe potuto ucciderlo senza bisogno di soffocarlo? L'insulina provoca un overdose di insulina, provoca un'ipoglicemia importante che può essere fatale dopo varie ore però. Sembra, dalle testimonianze della donna, che lei l'avesse in casa addirittura da 6 anni perché con quell'insulina avrebbe voluto suicidarsi, ma non si degrada il liquido. Il farmaco generalmente a casa deve essere conservato in frigo, quindi se fosse stato conservato a temperatura ambiente per tanti mesi, tanti anni, probabilmente la concentrazione del principio attivo nelle fiale è degradata o perlomeno molto più bassa di quella che uno si aspetta di avere. Trieste, Navitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Nei giorni scorsi si è chiusa l'attività del posto di polizia estivo di Lignano Sabbiadoro, che ha consentito di identificare circa 4.600 persone, di cui oltre 1.200 stranieri. Sono stati effettuati 167 posti di controllo, nel corso dei quali sono stati controllati 1.335 veicoli nelle principali vie di accesso alla cittadina balneare ed in quelle della cosiddetta zona rossa, per la quale sono stati emessi 22 ordini di allontanamento, 26 le persone indagate in stato di libertà e 5 gli arresti, tra cui quello di 2 cittadini residenti a Cormons, trovati in possesso di un ingente quantitativo di stupefacenti. Sono state infine allontanate con divieto di ritorno nel comune 11 persone e a una minore è stato imposto il divieto di frequentare la discoteca Ca Margherita per la durata di 3 anni dopo essersi resa protagonista di un episodio violento all'interno. A Trieste il nucleo di polizia edilizia, che controlla cantieri edili, occupazioni del suolo pubblico e rispetto dei vincoli paesaggistici, da gennaio ha effettuato 196 controlli, sia a seguito di segnalazioni di cittadini o altri enti, sia in autonomia. Sono state 101 le comunicazioni di notizie di reato inviate all'autorità giudiziaria e 21 le indagini delegate, in aggiunta alla denuncia di 114 persone per le irregolarità riscontrate. Verificate anche strutture ricettive in cui sono emersi abusi edilizi, quali locali adibiti a cucina privi di cappa aspirante, bagni abusivi e difformità negli interventi dichiarati a inizio lavoro. Gabriele Rizzetto, 52 anni, è il nuovo direttore generale dell'Università di Udine. È stato nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del rettore Roberto Pinton. Prenderà servizio a gennaio del 2026 e resterà in carica 3 anni. Succede a Massimo Di Silverio, che ha ricoperto il ruolo per 12 anni con i rettori Alberto Felice Detoni, Roberto Pinton e a Fabio Romanelli, dirigente dell'Ateneo, che gli è temporaneamente subentrato nel ruolo fino all'insediamento del nuovo direttore generale. Con la firma dell'accordo istituzionale tra Università di Trieste e l'Agenzia regionale del diritto allo studio, ARDIS, passa all'Agenzia regionale la gestione dell'ex ospedale militare convertito da alcuni anni in struttura di accoglienza per studenti. In base all'accordo, ARDIS gestirà la struttura per i prossimi 5 anni, con possibilità di un rinnovo per un altro quinquennio. Già da questo anno accademico verrà dato alloggio a 164 studenti, a cui si aggiungono almeno 63 posti destinati agli studenti del Collegio Universitario di Merito Luciano Fonda, che avranno a disposizione alcuni spazi a uso esclusivo e altri a uso prioritario. Nel complesso, alcune strutture rimarranno a disposizione dell'università, che si impegna a fornire alcuni servizi come la rete Wi-Fi e Duroam per studenti. Inaugurata questa mattina negli spazi di Villa Aghi Costa a Trieste, una nuova struttura per l'infanzia destinata a ospitare i bambini dei 2 nidi, la cui sede in via Veronese sarà oggetto di un prossimo restauro. È entrato in funzione lunedì 1 settembre l'istituto scolastico provvisorio che ospita 2 asili nido triestini, semi d'infanzia alla Nuvola. Si tratta di un edificio in moduli prefabbricati provvisori, realizzato nel giardino di Villa Aggi Costa in zona Campomarzio, per ospitare i bambini di 2 nidi, la cui sede in via Veronese sarà oggetto di un prossimo restauro. Uno spostamento di sede che nelle previsioni del comune dovrebbe durare 2 anni. L'edificio, che ha richiesto circa 6 mesi di lavori e una spesa di poco più di 1.100.000 euro, ospita in totale 75 bambini. 60 del nido Semi di Mela, che prevede anche una sezione slovena, 15 della Nuvola. Divisa su due piani, la scuola Polmone prevede, oltre agli ambienti dedicati ai bambini, tra cui anche un atelier artistico, una cucina e una mensa, spogliatoi e locali di servizio per il personale, un deposito e una lavanderia. Anche parte del parco della villa sarà poi sistemato a scopo ludico e ricreativo. Presentando il nuovo plesso, gli assessori comunali ai lavori pubblici Lodi e alle politiche educative De Blasio hanno spiegato che l'area di Villa Aggi Consta è stata scelta per la vicinanza alla sede originale degli asili e per creare il minor disagio possibile alle famiglie. Hanno aggiunto che il plesso provvisorio è la dimostrazione dell'attenzione che la Giunta dà al sistema scolastico. Sulla questione delle lunghe liste d'attesa proprio per i nidi cittadini, sia pubblici che privati, e della perdurante mancata apertura di quello nel quartiere di Roiano per divisioni nella maggioranza in merito all'affidamento di parte della gestione ai privati, gli assessori hanno spiegato che la Giunta sta lavorando a una soluzione che consenta di uscire dall'impasse e trovare una soluzione, tenendo conto anche dei vincoli del bilancio comunale. Trieste, Daniele Letti, TGR, Friuli Venezia Giulia. La sanità, si aprono nuove prospettive per i medici di famiglia grazie al prossimo concorso per la scuola di formazione specifica in medicina generale, indispensabile per accedere alla professione. 80 domande per 40 posti disponibili al prossimo concorso per la scuola di formazione specifica in medicina generale indispensabile per accedere alla professione, in programma il prossimo 30 settembre, il doppio rispetto allo scorso anno e quasi il triplo del 2023. Un segnale in controtendenza che si registra anche a livello nazionale fa ben sperare a fronte della sempre più rilevante carenza di medici di famiglia anche in regione, ma addetti ai lavori e sindacati restano cauti. Non abbiamo la certezza che tutti i partecipanti termineranno il corso triennale, afferma Romano Paduano, direttore scientifico del CEF Formed, il centro di formazione regionale dei medici di famiglia. Guardando lo storico, infatti, all'ultimo concorso un anno fa, a fronte di 48 candidati, alla fine non si è riusciti a coprire 40 posti disponibili, ricorda Paduano. Alcuni abbandonano per iscriversi a un'altra specialità, altri perché si accorgono che non è il lavoro che pensavano di svolgere o per motivi personali, spiega il direttore del CEFORMED. E a incidere, rimarca, è anche la borsa di studio per il corso, ancora ferma a valori di 10 anni fa, 800 euro al mese, 11.000 euro l'anno, la metà di quella per le specializzazioni, precisa il presidente regionale del sindacato SNAMI Stefano Vignando, che richiama la necessità di correttivi per trasformare il corso abilitante in una vera e propria specialità e di aumentare il numero di borse per i medici di famiglia in formazione per renderlo più attrattivo. Vignando ricorda poi anche il problema delle donne medico, sempre più numerose e ad oggi poco tutelate, dice. Il vicepresidente dell'Ordine dei Medici di Udine, Gianluigi Tiberio, infine, auspica che venga sciolto il nodo della riforma dell'assistenza territoriale che oggi, sottolinea, sta frenando la scelta di molti giovani medici. Lara Boccalon, TGR, Friuli Venezia Giulia. Trump, bus elettrici e trasporti alternativi, è il primo incontro del ciclo Let's Change, il clima sta cambiando, parliamo, nel progetto dell'Università di Trieste, inteso a discutere di temi che spaziano dalla mobilità sostenibile alla transizione energetica, fino alla progettazione di ambienti urbani più confortevoli, inclusivi e resilienti, alla riqualificazione del patrimonio edilizio. Oggi si parlerà di terre rare e transizione energetica a Trieste, al Caffè San Marco, alle 18. Tra i relatori Alois Bonifacio, docente di fondamenti chimici delle tecnologie all'Università Cittadina, con cui abbiamo parlato dei problemi dei trasporti alternativi. Parleremo di transizione energetica cercando di fare una prospettiva un po' diversa dal solito. Da un lato volevamo in qualche modo collegare la situazione locale, cittadina, diciamo, con quella internazionale. I nuovi bus elettrici saranno proprio uno spunto in un discorso tra visione energetica e geopolitica delle risorse che ruota attorno ad alcune materie prime, tra cui le terre rare, ma non solo. Si parlerà anche di triciclo e il filo conduttore, diciamo, sarà la mobilità sostenibile, un argomento di cui parlerà anche il mio collega Andrea Mio, con specifici riferimenti alla realtà cittadina di Trieste. Ci sono diversi ordini di problemi che emergono. Il problema più evidente è che la Cina al momento è il posto dove si fanno le cose al mondo, si fanno le cose bene, inclusi i veicoli elettrici, inclusi gli autobus elettrici. È un problema, il mercato è un po' distorto da questo monopolio. I monopoli non fanno mai bene, no? Adesso siamo nel pieno terremoto dei dazi imposti da Trump, questo ha ripercussioni anche sull'import-export di diverse materie prime, tra cui anche le terre rare, ma capiremo anche perché le terre rare sono importanti per la mobilità elettrica, ad esempio. 2 settimane a Pordenone Legge, la rassegna dedicata al libro e alla libertà, come sottolinea il presidente della Fondazione Michelangelo Agrusti, che quest'anno, 26ª edizione, avrà come tema conduttore l'Europa. Sentiamo lo stesso Agrusti. Ci sarà un'arena Europa sul Noncello, dove si svolgeranno buona parte degli incontri con gli autori europei, ma essendo anche festa del libro e della libertà, si aprirà con un grande personaggio, un premio Nobel per la pace, Shirin Ebadi, questa coraggiosissima avvocata iraniana che si è battuta per la libertà delle donne e per la libertà di tutti gli iraniani, e per questo è minacciata costantemente, quindi lei vivrà sotto scorta più che altri in questi giorni. Quindi noi siamo contenti di iniziare così e di finire con un grandissimo concerto che noi dedicheremo a Gorizia, città europea della cultura, fatto da due orchestre, una italiana, quella del teatro e coro del teatro di Trieste, e una slovena del teatro e coro di Maribor, diretti da uno dei più grandi direttori d'orchestra, specialistico nella direzione della nona di Beethoven. La nona di Beethoven, perché dentro la nona di Beethoven c'è l'inno alla gioia. E quindi questa sarà la conclusione di Pordenone Legge, curvato sull'Europa. Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia. Chiuderà a fine settimana Ricreestate 2025, il servizio del Comune di Trieste che offre attività ricreative per bambini e ragazzi della città, presente da molti anni come opportunità ludico-ricreativa e complemento educativo all'attività invernale, caratterizzato da proposte che spaziano dal gioco allo sport, dalla musica alle arti espressive, e cui hanno partecipato circa 22.000 tra bambini e ragazzi, 2.000 per ognuno degli 11 turni organizzati. Particolare novità l'iniziativa organizzata dal gruppo comunale di protezione civile, che si è svolta nei mesi di luglio-agosto all'interno di tutti i ricreatori, con l'obiettivo di far conoscere ai più giovani l'importante servizio svolto dai volontari e di promuovere le buone pratiche di comportamento in casi di calamità e a difesa del territorio. Nel corso del Ricreestate è proseguito infine, in linea con la programmazione invernale, il progetto educativo Growing Up, destinato agli iscritti più adulti, che ha visto un fitto calendario di iniziative in diverse località della regione. Nella cornice del Tempo del Creato, iniziativa ecumenica che ogni anno si celebra dal 1 settembre al 4 ottobre, che quest'anno ha come tema la pace con il creato, il Vescovo di Trieste, Monsignor Enrico Trevisi, celebrerà una Santa Messa a Trieste al Giardino Pubblico Muzio di Tomasini alle 18.30. La celebrazione è inclusa nel 10° anniversario della Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato, istituita da Papa Francesco, e utilizzerà il nuovo formulario liturgico Missa Pro Custodia Creationis, promulgato da Papa Leone XIV in occasione del 10° anniversario dell'enciclica Laudato Si. Si intitola Montagna, istruzioni per l'uso, il libro scritto dalla divulgatrice scientifica Giulia Negri, che contiene consigli pratici per chi vuole compiere escursioni uscendo da panorami instagrammabili e dai sentieri più battuti. Tra le pagine, numerose indicazioni concrete per imparare a leggere le mappe e gli strumenti tecnologici utili in un ambiente in cui si possono trovare diversi pericoli, oppure per preparare lo zaino e riconoscere piante e funghi. L'opera sarà presentata dall'autrice a Trieste, la libreria Lobat, alle 18. A lei abbiamo chiesto quali siano gli errori più frequenti di chi si avventura in montagna senza esperienza. Gli errori che forse sono più comuni, più diffusi, sono proprio quelli legati all'attrezzatura, quindi avere con sé il vestiario adatto, avere le scarpe corrette, ma anche avere pianificato l'escursione, sia dal punto di vista mi sono preso il tempo di decidere dove andare, ho studiato un attimo com'è il percorso e ho controllato il meteo, visto che la giornata è buona per fare questo tipo di escursione, ed è un qualcosa di molto difficile saper rinunciare nel momento in cui ci troviamo in una condizione di difficoltà o anche di insicurezza. Insomma, può capitare di essere su un sentiero, di trovarsi in un passaggio sul quale non siamo proprio convintissimi. Ecco, in questi casi è meglio rinunciare e tornare indietro che fare un qualcosa in cui poi rischiamo di essere troppo in difficoltà e magari poi in un secondo momento di avere bisogno di aiuto. C'è chi, quando va in montagna, desidera il silenzio, la pace, e quindi magari evita di andare in quei luoghi in cui ci sono già moltissime persone, e chi magari vedendo il video sui social dice ah caspita quel posto è meraviglioso, vorrei proprio andare a visitarlo, e però poi il problema è che soprattutto se magari si va nei periodi di altissima stagione ci ritroviamo a fare delle code lunghissime, a sgomitare un po' sui sentieri, e questo diciamo che è un'esperienza che forse è più comune vivere nelle città o in località di vacanza diverse. Forse sulla montagna ci fa strano perché non siamo ancora così tanto abituati a vedere questa cosa, o anche se ci stiamo abituando magari non a tutti piace. Ed è tutto per questo appuntamento con il giornale radio, che è stato redatto e condotto da Maria Spezia e Giorgio Beyerz, che vi parla, con la collaborazione tecnica di Pasquale Nocera e di Carlo Morello. Ha collaborato in redazione Valentina Veneruso. Prossimo appuntamento con il giornale radio, con l'edizione delle 15. A tutti voi un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.